Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Già circolano in Spagna, in Olanda, in Germania. Parliamo di tir lunghi 25 metri abbondanti, per la precisione 25 metri e 25 centimetri. Mezzi quindi 7 metri più lunghi rispetto ai veicoli di 18 metri che già si possono incontrare sulle nostre strade, che già superano, seppur di poco, parliamo di meno di un metro e mezzo, le dimensioni standard. A questo proposito va ricordato che si tratta di un progetto in fase sperimentale. Ma torniamo ai 25 metri, chiamati ecocombi o più in generale mega truck. Li vedremo mai anche in Italia? Se ne è parlato nei giorni scorsi a Roma in un convegno organizzato da Anita, che da tempo sostiene l'opportunità di sperimentare anche nel nostro paese mezzi così lunghi anche in doppia composizione, cioè costituiti o da una motrice con semirimorchio o da un auto articolato con rimorchio. Come è stato sottolineato da alcuni studi presentati nel corso dell'incontro, anche se la massa complessiva degli ecocombi è maggiore, questi veicoli hanno comunque un minore impatto sull'infrastruttura perché il carico per asse è inferiore. A Roma abbiamo intervistato il presidente di Anita, Thomas Baumgartner. Veramente un'opportunità, perché penso che abbia una serie di vantaggi. I vantaggi vanno dalla diminuzione dell'emissione di CO2 per chilogrammo trasportato, una diminuzione della congestione stradale perché il veicolo consuma meno spazio, un aumento anche della sicurezza stradale perché comunque le masse frenanti sono migliori, una migliore produttività e costo anche per i committenti, perciò è una situazione veramente win-win per tutti. E poi, non ultimo, anche un'ottimizzazione del sistema intermodale ferrovia-strada, perché con i veicoli modulari si possono abbattere i costi della terminalizzazione stradale. Quindi penso che l'Italia non debba in questo rimanere indietro allo sviluppo che si sta avendo in Europa, perché rimaniamo secondi e non dobbiamo permetterci di non cogliere questa sfida. Occorre un adeguamento normativo? Non occorre un adeguamento normativo, perché il peso sugli assi sarà minore di quello attuale. I veicoli sono veicoli rimorchi, occorre solo che il Ministero permette la sperimentazione. La direttiva comunitaria 53 del 1995 più quella del 2015, la 917, permettono queste combinazioni sulle strade nazionali, perciò occorre solo un po' di buona volontà, un tavolo di concertazione a livello ministeriale per partire con una sperimentazione di 5 e 6 anni. Più di 2.500 giovani tra i 18 e i 29 anni si sono iscritti al progetto Giovani Conducenti, avviato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, in collaborazione con le associazioni di categoria e quelle dei costruttori e dei titolari delle autoscuole. L'obiettivo, come vi abbiamo raccontato già altre volte, è quello di formare una nuova generazione di autisti, aiutando i ragazzi a conseguire le patenti e i titoli di abilitazione a condizioni economiche vantaggiose, praticamente ad un costo abbattuto dell'80%. Termine per la presentazione della domanda è scaduto venerdì scorso. Terminata la selezione, sulla base della regolarità dei requisiti e dell'ordine di iscrizione, saranno circa un migliaio i giovani che si avvieranno sulla strada della formazione. Una volta conseguita la patente, la CQC, la carta di qualificazione del conducente, parteciperanno a stage nelle aziende. Parallelamente, il progetto Giovani Conducenti prevede una serie di incontri con gli studenti delle scuole superiori ai quali prospettare questa opportunità occupazionale. L'intenzione dell'Albo Nazionale è di replicare il progetto anche nei prossimi anni. Venerdì, su iniziativa di UNRAE, l'Unione Nazionale dei Costruttori Esteri, questo giro d'Italia tra le scuole ha fatto tappa a Palermo, nel Centro Nazionale Opere Salesiane, nel quartiere Uditore, una bella realtà per i giovani che si stanno specializzando in vari settori: automotive, elettrico, grafico, meccanico e turistico alberghiero. Ragazzi, è stato raccontato il mestiere di autista e più in generale il mondo dell'autotrasporto attraverso varie testimonianze. Per degli studenti è stata anche l'occasione di salire su alcuni mezzi che hanno fatto passerella nel piazzale interno dell'istituto. Il Centro Nazionale Opere Salesiane per la Formazione e l'Aggiornamento è un altro dei soggetti impegnati nel progetto Giovani Conducenti. Matteo D'Andrea è il segretario nazionale del settore automotive, appunto a Palermo lo abbiamo intervistato. Potremmo dire che c'è un giro d'Italia ciclistico e c'è un giro d'Italia sui camion con i ragazzi protagonisti grazie al vostro impegno. Sì, e noi dobbiamo dire grazie alle aziende che ci danno una mano molto molto importante, perché se non ci fossero state loro noi non avremmo i centri nostri più attrezzati, all'avanguardia di tutti i centri italiani e non solo, perché poi siamo presenti in tutto il mondo con circa 1200 centri salesiani nel mondo di formazione professionale. Il rapporto con le quattro ruote da parte dei ragazzi, come è cambiato, come sta cambiando? Sta cambiando in meglio, perché sono ragazzi tecnologici e la novità loro non è come noi che ci spaventa. Io se devo mettere a posto un telefonino mi rivolgo a loro, che magari non studiano tanto, però su queste tecnologie sia delle accessori che dei camion sono veramente... Poi c'è stato un evento qui con dei truck e loro sono stati protagonisti per l'interesse che hanno mostrato. Anche rispetto a questo mestiere di autista di camion? Anche questo mestiere, perché prima non ci pensavano, poi grazie all'intervento di URAE e di altre associazioni che stanno spingendo hanno capito che la figura del conduttore di camion non è quella più di una volta, ma è un'altra cosa, è un tecnico che guida il camion, non il solito. E oltretutto c'è anche una interessante offerta di lavoro. Grazie a queste associazioni che ci presentano statistiche, che abbiamo capito che è una fetta di mercato importante. Noi, la nostra mission è quella di creare occupazione, ci dà la possibilità ai ragazzi di un lavoro, questa è un'opportunità. E ora la voce di alcuni ragazzi. Federico. Andrea. Di fronte a questi camion vedi un futuro? Ah, questo sicuramente, è una grande opportunità anche per noi per scoprire il mondo dei mezzi pesanti e anche del camionista, è una figura molto importante. Cosa ti affascina di questo mestiere? Viaggiare, girare per il mondo e conoscere tutti i vari posti del mondo. È un lavoro duro? Sì, certo che è un lavoro duro, perché la figura del camionista è un lavoro pesante, perché guidare non è tanto facile, restare alla guida di un camion. Cioè, quindi siete consapevoli che sarebbe una prospettiva occupazionale interessante, ma densa di sacrifici? Questa sicuramente, perché guidi anche con un mezzo di una certa importanza, perché devi rispettare il tempo, gli orari, e anche la meccanica qui è molto importante. Sembrano astronavi. Eh sì. Sì, sembrano astronavi perché c'è molta tecnologia su un camion. Anche come elettronica, meccanica, siamo a livelli di tecnologia molto avanzati. Quindi sarà il vostro lavoro? Ma non lo so, pensiamo di sì. Se possibile. Speriamo. Sì. Speriamo per il nostro futuro di più. Sì, questo è il nostro lavoro. Asconauto, l'associazione nazionale dei consorzi di concessionari d'auto, ha firmato il primo contratto nazionale di lavoro per il settore automotive. Fabrizio Guidi, presidente di Asconauto. Per la prima volta un contratto all'interno dell'area commercio, industria, eccetera, un contratto dedicato specificamente al settore, invece di essere un contratto generalista che raggruppa varie fasce di attività, moltissime fasce, a volte fino a 140 attività diverse. Nello specifico del mondo dell'auto, la possibilità di mettere nelle mani del concessionario una serie di strumenti per fare in modo che la sua attività, un'attività che è stata interessata fortemente dalla crisi, ha chiuso il 40% dei concessionari negli ultimi anni, sia più flessibile, più duttile, più responsabilizzante, nel senso più capace di coinvolgere i dipendenti in obiettivi, in risultati, capaci di adattarsi con gli orari alle aperture domenicali che sono ormai prassi continua, capaci di coinvolgere figure nuove attraverso contratti di collaborazione per tutto quello che riguarda i collegamenti online, via telefono e poi altri momenti che sono quelli di retribuzioni legate anche a sistema previsionale, a incentivazioni, perché comunque se l'azienda va bene è giusto corresponsabilizzare le persone e apprezzarle, quindi farle sentire coinvolte in un progetto, chiedergli un piccolo sacrificio di fronte a risultati che magari tutti insieme non riusciamo a ottenere. Rimaniamo in ambito sindacale. Contro i provvedimenti annunciati dalla Commissione europea sui tempi di guida e di riposo e sul distacco dei lavoratori e per sollecitare misure contro il dumping sociale, per lunedì prossimo Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti hanno indetto uno sciopero nazionale di 4 ore per il comparto autotrasporto merci. Mi fermo qui, a breve il GR, grazie per l'attenzione, noi come sempre ci risentiamo lunedì prossimo con hashtag autotrasporti, 13.45 in coda ad effetto giorno, da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti.